vedi? Eh sì, c'è anche. Comincia con lo sciacquone. Lo sciacquone del carcere. No, il carcere, sono i bagni pubblici questi. Senti la musica, è proprio da bagno pubblico. Poi anche nel bagno pubblico. Cos'è? C'è... Sta guardando. Bravo, questo è il nuovo inno della nuova stagione estiva. Mercoledì, ti sembra il caso di. Come si? Plötzlich kom jag ihåg, det var ingen dröm. Vedi? C'è un indiano che parla. Stai zitto. Ah, vedi? Già va. Vedi, non è, sembra soft porn, ma non è. E cos'è? È musica. Questa parte, i bacini, ecco, vai, drago. È arrivata la polizia. Let's go, fai andare il bacino. Fai andare il bacino. Ecco gli elicotteri. Sì, e poi? Non lo so perché. Ti sembra questa la sigla della versione estiva di Chiedo Asilo? Lasciati andare, la versione cos'è? Estiva. Star Schiaccio. Chiedo Asilo estate con George Michael. No, vabbè, ma. Let's go! No, ma si finisce male con George Michael. No. Come si finisce male? Si finisce poi, no, sai, con manette. Drago, fai andare il bacino. Yeah. È sempre arrestato per i motivi più imbarazzanti. Da da da da. Come? Ma chissà poi al pronto soccorso come lo conoscono George Michael. È famosissimo nei bagni pubblici, ma anche però pronto soccorso quando gli trovano. Shh, fallo cantare. Vedi, l'abbiamo fatto sul sofà. Sono stufo di farlo nei ristoranti, anche in cucina. The kitchen baby. Andiamo fuori quindi tutti in cortile, basta con la solita permanenza nell'aula, ecco, e via. Andiamo in cortile a far cosa? Andiamo a fare una ricreazione permanente da qui alla fine di giugno. Chiedo Asilo si rinnova da oggi, tutti con George Michael, tutti nel cesso chimico, vai! Chiedo Asilo. Non ho capito il cesso chimico, era pubblico, non chimico. Vabbè, ma sai com'è. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago, sai. Ed eccoci finalmente, Drago, al guado chimico del mercoledì. Sì. Un momento importante della settimana. Ok, però andiamo avanti, perché sennò qui ogni volta devi farmi il pippolotto sui giorni della settimana. No, perché il punto esatto in cui si smette di salire si comincia a scendere. Sì, ho capito. Come certe salite del Giro d'Italia. Vabbè, no? Siamo anche a tema, sì. Io non so niente, no, però so che d'Italia. I ciclisti arrancano, no? Tutti stravolti verso la cima del passo e poi. Sì. Liberi di lasciarsi andare giù in discesa. Diciamo che la metafora è suggestiva, però ricorda che dopo il mercoledì non c'è subito il weekend, sì. Ma ci sono ancora due giorni, due lunghissimi giorni interi, quindi non sarei tanto entusiasta di questo mercoledì. Aritmeticamente, Drago, aritmeticamente. Non puoi darmi torto. No, se fai il conto delle ore che mancano al weekend, partendo da lunedì mattina, vedrai che proprio oggi, proprio verso quest'ora, abbiamo superato il guado chimico. Va bene, però adesso cominciamo con. Con cosa? La settimana scorsa, Drago, che in TV c'erano i bambini Fazio e il bambino Saviano, tutti portavano delle parole e le spiegavano. Sì. Ebbene, nessuno che è andato lì a spiegare la parola settimana. Ma effettivamente mi sembra nessuno. Potevano chiamare me, io avrei preferito parlare del venerdì. Sì, però tu non sei conosciuto come un probo difensore dei valori civili, quindi non mi risulta, non sei della specie dei gramellini, dei travagli, dei Lerner, Caposeli, che invece sono stati invitati. Com'è il plurale di Lerner? Lerners, scusate, vero? Loro sono stati invitati. Perché sono civili, civici. Sì, in effetti mi manca un po' di fama come combattente per queste cose qua. No? Sì, infatti. Dovresti crearti una storia di grande impegno civile, allora poi potrai andare alle trasmissioni televisive sulla 7 a spiegare la tua idea di settimana, anche se la settimana o il venerdì non sono propriamente parole che sono in voga tra i civili. Tra i civili. Il venerdì. Le parole da usare per i civili sono rispetto, altruismo, libertà, felicità, capito? Non è che puoi arrivare tu con settimana, con venerdì, che pare subito una cosa disimpegnata, no? Ma comunque è una parola, Drago, che coinvolge migliaia e miliardi di persone. Miliardi, anche perché io punterei su la settimana lavorativa. Sì, ho capito, però guarda che. Tranne il venerdì. Ma Fazio è sensibile solo a certe parole, altre no. Quindi ma la vera assente tra le parole è quel a le la vera assente tra le parole a quello che non ho è stata quella certa parola che fa rima con riga, Drago. Ma cappa, dai. Ma come? Scusa, un accenno potevano anche farlo. Ho capito. No? Ma... è comunque la parola più importante in tutto il mondo, a tutti i livelli, un accennino potevano farlo. Ma non andrai, cioè, se pensi così, non andrai mai a quel tipo di programma. Ma perché? Ma scusa, a Fazio non piace. Ma cosa? Ma no, ma che ne so, ma cosa c'entra adesso? Ma era per sapere. Vabbè, tu messo così, al massimo vai al programma di Piroso. Vai lì. Ah, vabbè, sempre sulla 7. Sì, però non ha quell'afflatto civico e civile di Fazio Saviano. Sì, ma almeno fa ridere. Allora, siamo pronti? Certo che siamo pronti, lo sa che arrivo sempre 50 minuti prima. Ma Alberto, la puntualità, ok che è una cosa importante, però io imparerei a essere felice in ogni momento cogliendo l'attimo, e cogliere l'attimo non significa prepararsi prima e prendere la rincorsa, perché la rincorsa è un atteggiamento che il fagiano non ha, il fagiano non rincorre. Ma questa è già lezione, la rincorsa, bisogna rincorrere qualcuno. No, ti sbagli, tu devi essere rincorso. Come essere? No, io se no ti facevo il capo dei lupi, non ti facevo di certo il capo dei fagiani. Ma questa roba dei fagiani ancora non l'ho mica digerita. Comunque, qui io sono qua, ho pagato per essere istruito, no? Allora io ti qui insegno. Siamo alla terza lezione e di cose pratiche, appunto. Di avventure, cioè avventura, no? Adesso, pericolo. Adesso io, proprio per venire incontro a questo tuo bisogno che sento così forte nelle ultime uscite, negli ultimi raduni, pensavo proprio di parlarti di un'arte, di insegnarti l'arte della fuga. Come l'arte della fuga? L'arte della fuga. L'arte è innanzitutto un importantissimo libro che ha scritto Giuseppe Pontigia. Che no, ma un attimo, senta, quei libri, l'arte della fuga, qui non devo scappare io, devo cacciare, no? Ma non come? Scappare, poi l'arte della fuga era. Ma tu lo sai qual è l'urlo, il motto dei fagiani? Il motto dei fagiani è viva la fuga! Ma non è viva la fuga! Guardi, sono un bambino, ma in giro vedo che ho le scritte sui muri, è un'altra roba, non è viva la fuga! Ma ti sbagli, è viva la fuga, eh! È viva la fuga! E fa anche, poi c'è anche la parte dopo, no? Che dice viva la fuga! Perdi una ruga. Che perdi una ruga, era viva la, un'altra cosa che Dio era Dio, un'altra cosa. Dio cosa ha insegnato? Che Dio la benedica. Lo mettiamo in pratica, insegniamo che Dio la benedica, e appunto diceva: se uno ti dà uno schiaffo, ma non la fuga però, porgi l'altra guancia. No, come l'altra guancia? Io devo reagire, no? No, perché questo è un mondo di maschere, no? E in questo mondo di maschere. Che maschere? Le maschere che gli uomini si mettono addosso per cercare di non essere quello che sono, di non mettersi a nudo, di non mostrare i propri sentimenti. Lei sta straparlando, allora, quali maschere? Allora, innanzitutto ci vuole rispetto, perché te sei un pochettino irriverente. Sì, ma siccome non siamo a scuola, siamo in un istituto professionale. L'articolo 7 degli scout, gli scout sanno benissimo. Già versato, quindi... E non ti lamentare che abbiamo la tariffa più bassa di tutta la Lombardia, eh? Perché noi i finanziamenti esterni non li riceviamo. Ma chi ce li dà voi? Se lei non ha ancora insegnato neanche a stare nessun albero. La CIA è per le canzoni che facciamo, no? Allora, per cercare di spiegarti il vero insegnamento che sta dietro alla fuga, c'è bisogno di contrastare l'aggressore. Contrastare, no? Come lo contrasteresti tu? Dimmi come contrasteresti. E metti in posizione, cioè dico, allora, faccenda, io guarda che sono mica uno che... Questo è l'introduzione, no? La posizione, te la spiego io esattamente com'è, che così vedo che sei reattivo, che capisci? Sì, capisci? Allora, la posizione, gambe divaricate. Gamba leggermente divaricata, poi bacino spostato leggermente a destra, e poi col colpo sinistro imbracci la chitarra e tipo mitra dici... In un mondo di maschere, dove sembra impossibile riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l'uomo, canta con noi, batti le mani, alza le in alto, muovile al ritmo del canto, stringi la mano del tuo vicino e scoprirai che è meno duro il cammino così. Facesse qui. Hai capito qualcosa oppure? No, non ho capito niente qui alla fine. Qui la reazione cos'è? Mica non mi metto a cantare se mi aggrediscono? E certo. Faccio la figura del bamboccio? Potresti cantarne anche una ancora più, ancora potresti dire addirittura, ma che figura del bamboccio? Ma tu non capisci l'esaltazione, la libido che si cela dietro? Ma che libido? Se io canto quelli poi mi prendo la scarpata in culo! Ma stai scherzando? E allora, c'è quella canzone bellissima che diceva... Quel pugno che mi detti no, basta, adesso è un gesto che ti non detti, ti perdono, ma il naso ora è diverso. Masochismo, cioè io. Ho fatto io. Io vado, tanto e non Dio. Eventualmente la prossima, tanto qui procede. Tanto la giustizia italiana che buffa è lunga, che sei. Ma è inesorabile. Ma che buffa che sei. Queste navi con noi sembrano noi. Giorgio, per ricordarci che fuori è estate, che gli uffici, la tristezza, la crisi, la Grecia, vabbè, va bene, però fuori però sta arrivando l'estate. Esatto, una volta che uscite tutto è bellissimo. Sta arrivando l'estate. E il polline fa dei brutti scherzi. Codeina. Tieni la codeina, tieni qua. No, ma cosa? Kappa. È morto.